Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Subito la mail: unabusoalgiorno@radio24.it. Il mio blog invece si chiama Guardie o Ladri. Se lo visiterete e lo commenterete, mi fa piacere. Si trova sull'home page del Sole 24 Ore e si chiama, guarda caso, come la trasmissione che conduco il sabato alle 19.30 su Radio 24, dove affronto i temi che mi appassionano più degli altri, devo dire, vale a dire quelli della criminalità organizzata e dell'economia criminale. Ieri abbiamo parlato di diritti dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, quindi da lavoratori che hanno già difficoltà a curarsi e che poi magari spesso devono fare i conti con il diritto del lavoro e con relazioni sindacali. Abbiamo sentito ieri dal professor Tiraboschi datate. Sono pochissimi i contratti collettivi nazionali di lavoro che riconoscono il diritto ad assentarsi per periodi più lunghi ai lavoratori colpiti da queste patologie. Qualcosa di più si fa nel pubblico, nel privato si fa ancora meno. Allora, io direi di partire da queste considerazioni parlandone quest'oggi con l'avvocato Elisabetta Iannelli, che è vicepresidente dell'AIMAC. L'AIMAC è l'Associazione Italiana dei Malati di Cancro. Buongiorno, avvocato Iannelli. Buongiorno, buongiorno. Allora, le chiedo subito, è vero quello che ieri ci ha detto il professor Tiraboschi, che c'è una arretratezza dal punto di vista della conoscenza dei diritti dall'una e dall'altra parte, diciamo così, del tavolo datoriale del lavoro? Questo purtroppo è vero, infatti con la nostra associazione una delle mission principali è proprio quella di fare informazione per far sì che i malati conoscano quali sono i diritti in modo tale da poterne usufruire. Stiamo anche lavorando con le organizzazioni datoriali per far sì che lo stesso datore di lavoro che si trova a dover gestire un lavoratore che si ammala di una patologia così grave sappia come gestire questo momento di crisi che si ripercuote anche all'interno dell'organizzazione aziendale. E sono diversi anni che abbiamo portato avanti questo progetto, proprio perché ci rendiamo conto delle necessità quotidiane, delle difficoltà quotidiane che incontrano i malati di cancro. Io personalmente ho unito la mia esperienza professionale di avvocato con l'esperienza personale di malata ormai da 15 anni che combatto con la malattia, e ho messo insieme queste due cose e ho prodotto un piccolo vademecum fantastico, ecco, diamo informazioni, ecco, diamo informazioni anche di servizio, cioè guide pratiche ai nostri radioascoltatori che si trovano in questa condizione francamente non invidiabile. Esiste un sito internet? Esattamente, sì. Ecco. I malati o anche i familiari che hanno bisogno di assentarsi dal lavoro per accudire ai loro cari possono andare sul nostro sito che è www.aimac.it e scaricare gratuitamente questa guida ai diritti del malato di cancro, oppure telefonando in associazione al numero verde 840 50 3579 possono chiedere di farsi spedire la versione cartacea direttamente a casa. Ecco, io la ringrazio di questa informazione e passerei la parola al professor Francesco Schittulli, medico senologo di fama e presidente nazionale della LILT, la Lega Italiana nella lotta ai tumori. Buongiorno professor Schittulli. Buongiorno. Allora le chiedo, la sua è una associazione, è una lega nei confronti della quale non bisogna spendere poi tante parole perché è conosciutissima, e allora le chiedo questo: che tipo e che livello di interlocuzione voi avete con chi ci rappresenta, i nostri parlamentari, il nostro governo? Cioè, che tipo di sensibilizzazione riuscite a effettuare e a, come dire, indirizzare nei confronti dei governanti, ma anche nei confronti, diciamo così, dei sindacati? Perché, come ci ricordava Tiraboschi, l'ignoranza è dall'una e dall'altra parte. Sì, questo è vero. Ciò che ha detto il professor Tiraboschi e anche le considerazioni dell'avvocatessa Iannelli oltre alla lettera molto puntuale presentata dalla signora Balboni, mettono in luce questa problematica, che sembrerebbe strano, ma è una problematica sia pur vecchia, ma che è emersa soltanto dall'inizio di questo secolo, e quindi dall'inizio degli anni 2000, si è evidenziata in maniera forte, determinante, e vi è stata la sensibilità di Biagi nel mettere su la legge Biagi, che è stato un primo passo, è un primo passo che ha introdotto quattro importanti facilitazioni per i malati di tumore, non soltanto la possibilità di fare visite mediche senza dover ricorrere a ferie o a permessi, ma anche quello di poter passare da una mansione più adatta al proprio fisico, quella di poter ottenere anche un periodo anche lungo di aspettativa, sia pur non retribuita, e poi di passare a un part time provvisorio. Questo è stato l'inizio di questa legge che ha notato, ha registrato già da allora la sensibilità dell'attuale ministro Sacconi, che allora invece era sottosegretario al welfare, e poi oggi con la possibilità di poter ulteriormente sensibilizzare lo stesso ministro, io credo che queste problematiche possono essere affrontate. Però noi abbiamo presentato, sempre insieme alla Fondazione Biagi e quindi all'ADAPT e come Lega Tumori, e insieme anche all'Europa Donna nello specifico per quanto riguardava i tumori della mammella, abbiamo presentato l'8 luglio al Presidente della Repubblica, che è stato davvero molto amabile in questo, abbiamo presentato i diritti del malato oncologico, pregandolo, invitandolo a farsi carico di rappresentare tanto ai due rami del Parlamento. Assolutamente. Come dire, condivisibile questa iniziativa. Una domanda a lei, professor Schittulli, e la stessa domanda all'avvocato Iannelli. Per questioni, diciamo così, di galanteria cavalleresche, partirei nuovamente da Elisabetta Iannelli. Vale a dire, quello che le vorrei domandare è questo. Ieri ci ricordava Lucia Balboni, la nostra radioascoltatrice, fortissima nello spirito, che però, e lo condivideva anche il professor Tiraboschi, che però molto spesso c'è una ritrosia, una paura anche da parte di chi soffre di tumore a raccontare questo e quindi affrontarlo anche proprio dal punto di vista giuslavoristico. Le risulta questo, che effettivamente nei lavoratori c'è questa paura? Forse paura è una parola un po' forte. Soprattutto ora che appunto i malati sono sempre più informati, che quindi pretendono che i loro diritti vengano rispettati, quindi in questo si sono, come dire, c'è stato un empowerment del paziente, del malato che chiede con forza quello che gli spetta. Il fatto di far passare l'informazione è fondamentale. Assolutamente. Fondamentale. Vi ringrazio soprattutto per questo, tanto che vi dirò di più che proprio la legge Biagi è nata da un convegno che organizzammo nel 2002 come AIMAC per presentare una dichiarazione dei diritti fatta a livello europeo per il malato oncologico, e dove l'allora sottosegretario Sacconi si prese l'impegno di fare qualcosa, lavorammo con lui e uscì fuori il part-time, che però riguardava solo i lavoratori privati, quindi in questo caso era un passo avanti più per il lavoratore privato rispetto che alla per quello pubblico. Io la però interrompo. È stato esteso al lavoratore, ecco, al datore pubblico. Io la interrompo un attimo, Iannelli, per chiedere al professor Schittulli, che è un medico senologo, c'è ancora questo tipo di paura o no? Si registra una diminuzione progressiva di questo, cioè c'è una maggiore sensibilità da parte del mondo femminile in particolare, ma anche dei malati di cancro a saper affrontare l'argomento, e lo chiedono. Dobbiamo essere noi a dare delle informazioni più corrette, e soprattutto noi associazioni di volontariato dobbiamo cercare anche di trovare un punto d'unione, una unità di intenti, e venire incontro alle esigenze del malato attraverso un'analisi ben precisa, puntuale dei bisogni dei malati stessi oncologici, e rapportarli insieme, non singolarmente come realtà strutturali del paese, ma insieme rappresentarli alle istituzioni. Bene, io raccolgo questo invito che giro dandogli il buongiorno al professor Michele Tiraboschi, che è stato già nostro ospite ieri. Buongiorno Tiraboschi. Buongiorno. Allora, qual è quindi il prossimo passo da compiere nei confronti delle istituzioni, nei confronti delle controparti datoriali, nei confronti dei sindacati? Insomma, che cosa manca per aumentare la sensibilità nei confronti dei diritti dei lavoratori malati di cancro? Una prima risposta può essere una risposta normativa, legislativa. Abbiamo la fortuna che il Ministro del Lavoro e della Salute, Sacconi, si fece promotore nel 2003 di questa prima garanzia, che è il diritto al tempo parziale. Se oggi le associazioni di tutela del lavoratore affetto a patologia oncologica danno delle informazioni più dettagliate sulle diverse casistiche e quindi sulle diverse esigenze dei lavoratori e lavoratrici malate, sarà possibile perfezionare e migliorare la norma e introdurre altre garanzie. Bene. Però poi dobbiamo capire che non è solo una questione normativa, è una questione culturale. Occorre spesso immaginare un nuovo assetto di organizzazione del lavoro, nuove relazioni industriali, quindi una fortissima sensibilizzazione perché gli interlocutori giuridici e sindacali e datoriali costruiscano dei regimi di lavoro che siano compatibili anche con delle assenze lunghe tipiche di questa malattia. Bene, io ringrazio il professor Tiraboschi e prometto ai miei radioascoltatori, ovviamente ringraziando anche l'avvocato Iannelli e il professor Schittulli, che torneremo sul tema sicuramente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Questa volta coinvolgerò proprio i sindacati. Grazie a Giorgio Matè in regia, in studio Laura Fagin, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.